Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo avuto occasione in questi 3 anni di trasmissioni al Quadrifoglio di incontrare parecchie realtà che operano nel territorio veneto. Ci ha colpito di recente un'esperienza nata a Frassanelle, un piccolo centro ai piedi dei Colli Euganei, noto forse più per il campo da golf e per la villa dei Papa Fava, un progetto che si chiama Alma Terra, che è composto di tante cose. Al centro c'è l'agricoltura, ma non solamente. Ecco, per saperne di più abbiamo oggi ospite Mattia Pastò, uno degli amministratori. Che cos'è Alma Terra e come è nato? Sì, buongiorno a tutti. Allora, Alma Terra è un progetto innovativo che si inserisce tra l'altro dentro a un nuovo contenitore che è quello della legge sull'agricoltura sociale, che è una legge recente del 28 giugno del 2013, che viene proprio a regolare i rapporti tra l'azienda agricola e l'ambiente del sociale, quindi del terzo settore, e cerca di unirli dentro l'unico contenitore che è appunto la fattoria sociale. Quindi diciamo che uno degli aspetti che più ci caratterizza e che in qualche maniera è anche diciamo già definito da questa legge è proprio l'ambito della fattoria sociale, ovvero uno spazio dove si esercita l'attività agricola produttiva, ma dove si esercitano anche tutta una serie di altre attività che sono legate alla cultura, all'istruzione, al benessere, all'accoglienza delle persone, all'offrire spazi di integrazione lavorativa e via dicendo, e quindi la parte del sociale. Noi, la maggior parte delle persone che gestiscono questa realtà, veniamo diciamo dal mondo proprio del sociale, quindi siamo educatori, siamo operatori sociali, lavoriamo molto anche con il teatro nelle scuole da molti anni, lavoriamo con il disagio psichico, abbiamo lavorato nelle carceri di Padova e via dicendo. E quindi conosciamo bene questo mondo e abbiamo trovato in questa nuova direzione, siamo partiti nel 2007 con un gruppo di persone che si sono incontrate attorno a un tavolo. All'inizio lo scopo generale era quello di individuare degli spazi dove poter realizzare dei progetti di co-housing e quindi di coabitazione. Poi diciamo che da questo primo approccio si è passati velocemente anche a chiedersi in che modo questo co-housing poteva intervenire a livello del luogo in cui eventualmente ci saremmo insediati e quale ruolo avrebbe avuto all'interno della comunità più allargata. E quindi diciamo il progetto si è ampliato ed è arrivato oggi, dopo tutti questi anni, ad essere strutturato in diverse macro aree, quelle che nominavate poco fa, che sono 8. Al centro però c'è sempre l'agricoltura adesso. Diciamo che al centro c'è un luogo che chiaramente è un luogo che è vocato all'agricoltura e quindi alla parte diciamo produttiva e di contatto e di relazione con la terra. È sicuramente fondamentale avere un luogo di questo tipo. Questo luogo si presta ad accogliere appunto tutte le iniziative che verranno sviluppate in futuro e che sono già in fase di sviluppo. Ecco, parlavamo di agricoltura, quindi c'è sia una parte di fattoria sociale, ma anche una parte di coltivazione, orti, vigneto, e in particolare c'è un'iniziativa che si chiama Orti Storti, attraverso la quale voi coltivate di fatto degli appezzamenti di terra per chi ve li ha commissionati. Esatto, questa è una nuova iniziativa che punta proprio a dare alle persone un prodotto agricolo naturale e quindi la possibilità di fare la spesa a chilometro zero utilizzando il sistema della vendita a bordo campo. Però quello che noi chiediamo alle persone è di fidarsi del nostro progetto e di finanziarlo prima di ottenere il prodotto, e quindi abbiamo trovato questa formula elaborata con l'aiuto di un agronomo che si chiama Alessandro Galetto. E questa formula è: noi chiediamo fondamentalmente alle persone di prendere in affitto diversi metri quadri, abbiamo fissato una cifra che sono 8 euro al metro quadro, e quindi noi diciamo in cambio vi restituiremo tot chilogrammi di prodotto che verranno st- stabiliti, poi tra l'altro diamo anche le possibilità alle persone di scegliere che tipo di verdure vogliono che piantiamo. Siamo noi che ci occupiamo di questa cosa, abbiamo i nostri operatori che sono in campo e di fatto questo vuol dire anche creare posti di lavoro. Ecco, quante persone ruotano attorno a questa iniziativa? Adesso lei sta parlando di persone che hanno aderito o persone che stanno lavorando? Sia che lavorano, chiaramente... sia che poi magari in qualche modo hanno un ruolo all'interno del progetto. Beh, certamente adesso il progetto è in fase di startup, di partenza. Abbiamo avuto alcune adesioni e quindi stiamo commisurando il numero delle persone che lavorano sugli orti al numero di adesioni che abbiamo ricevuto. E quindi adesso abbiamo un orto di circa 3.000 metri che stiamo coltivando utilizzando il sistema dell'orto sinergico, quindi abbiamo fatto certo. Tutti una serie di interventi di preparazione. Adesso siamo partiti un po' tardi quest'anno con la frantumazione delle piantine, però l'orto adesso sta prendendo piede e comunque appunto l'adesione è legata a un anno solare, quindi certo. Si può aderire in qualsiasi momento e si sa che si ha un anno di tempo per vedere i frutti di questo lavoro. Devo dire che l'iniziativa è stata molto apprezzata, insieme a un'altra iniziativa che abbiamo che si chiama Adotta la gallina. Anche lì noi diciamo: tu adotti la gallina, noi in cambio ti diamo le uova. E anche questa è stata una cosa che, insomma, simpaticamente, cioè diciamo che tutti i nostri progetti mirano a coinvolgere le persone attivamente nella nostra realtà, quindi farle venire in campo ogni tanto, anche semplicemente ad osservare quello che accade, e quindi farle tornare alla relazione con la terra, con l'attività produttiva, con il lavoro onesto di chi, come dire, suda sotto il sole per produrre quello che è, diciamo, creare valore, no? Ecco, valore... sul ritornare anche a visitare la vostra iniziativa, ci torniamo tra poco, ci dobbiamo fermare per qualche minuto. Grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. Me so high. torniamo in linea con il Quadrifoglio. Stiamo parlando oggi del progetto Alma Terra a Frassanelle, ai piedi dei Colli Euganei. E cambiamo voce, passiamo a una voce femminile. Abbiamo Judith Gabriel che ci parla di due cose. Dicevamo della possibilità anche di conoscere di questo progetto che è nato proprio per far conoscere, portare alla terra le persone. Centri estivi, ma anche la prossima settimana, il 20 e il 21 giugno, un piccolo festival di due giorni che si chiama Impari aspettando il solstizio. Partiamo dai centri estivi. Sì, buongiorno a tutti, sono Judith, sono qui ad Alma Terra col sole e approfitto per pubblicizzare quello che è un'iniziativa a noi molto cara, che è quella di centri estivi, centri educativi estivi, così li abbiamo chiamati. E la peculiarità di questa proposta, che si trova in tutto il territorio, in varie formule sportive, nelle strutture scolastiche, la peculiarità che noi diamo a questa proposta è quella di essere a contatto di nature, animali, ai piedi dei Colli Euganei, in un posto meraviglioso, e con la possibilità di passare praticamente tutta una giornata. Iniziano la mattina alle 7.45 per chi si sveglia presto, ha l'esigenza lavorativa di portare i bambini a quell'ora, fino alle 17. E collaboriamo con Cemea Contatto. Il metodo che viene utilizzato è quello dell'educazione attiva. Dico solo due cose: il fatto che abbiamo scelto di collaborare con Cemea Contatto è dovuto alla loro impostazione, che parte proprio dalle cose semplici che abbiamo a disposizione quotidianamente, certo, che magari non immaginiamo essere fonte di creatività, di giochi, di mille attività. Spesso immaginiamo il centro estivo come un luogo che deve essere riempito di giochi preconfezionati, cui i bambini aderiscono passando da uno all'altro. E ecco, noi abbiamo un'impostazione molto diversa. Eccola. Una cosa molto bella che troverete, che verrà montata al più presto, è una tenda meravigliosa che ci sarà anche durante il festival. È una tenda speciale che anticipa l'arrivo della nostra tenda kazaka, che invece arriverà a settembre, un po' la sorella che ci fa compagnia nel frattempo. Una tenda molto grande, di diametro di 7 metri, in cui ecco, si possono fare letture, attività. Siamo un po' in chiusura, parliamo del festival, quindi il 20 e 21 di giugno cosa si può trovare? Allora, il 20 giugno vi ospitiamo con un'attività che festeggia il solstizio d'estate. Si chiama infatti Aspettando il solstizio d'estate. Inizia alle 16, sia il 20 che il 21. Alma Terra si presenta, quindi diciamo che è una sorta di inaugurazione per noi almaterrestri, e poi ospita una lunga serie di attività. Il 20 giugno abbiamo un aperitivo, un buffet a cura di Home Social Restaurant, mangiare con a casa nostra, e anche questo in una maniera molto che ci ha incuriosito moltissimo di proporre il catering. E poi c'è una presentazione di Andrea Ragona e Gabriele Gamberini, edizioni Becco Giallo, alle ore 20:30. Alle 21 c'è uno spettacolo meraviglioso, Vasco Mirandola e Piccola Bottega Valdassarre, Ci sono notti che non accadono mai, è un concerto poetico, così lo chiamano, e Alma Terra poi propone DJ set e falò Aspettando il solstizio d'estate. Per quanto riguarda la domenica 21, sempre dalle 16 alle 22, l'accoglienza, chiediamo ai nostri amici animali asini di accoglierci, passeggiamo con loro, ci entriamo in relazione, ci spazzoliamo, ci coccoliamo. Alle 18 c'è musica e danze con musicisti folk, e di nuovo cena e buffet, sempre con lo stesso catering. E poi proponiamo noi uno spettacolo, io e Mattia, si chiama Magnetati, ed è uno spettacolo che ha come obiettivo quello un po' di in maniera satirica, è un viaggio di alimentazione. Ecco, l'indirizzo, Frassanelle? E Cervarese Santa Croce, via Frassanelle 12, terra. Vedete gli asini che subito vi accolgono. Perfetto, grazie. Grazie, arrivederci. Concludiamo con un'altra notizia di un altro festival particolare. Questo caso si svolge a Lusi, alla patria dell'insalata in provincia di Rovigo, dal 12 al 21 giugno, Vivo e Vegeto, il festival vegan vegetariano. Sono in programma serate, cene di gala, buffet di cucina vegana vegetariana, ma anche spettacoli di intrattenimento, convegni, seminari, scuola di cucina vegana, mercatino di prodotti bio e cosmesi naturali. L'evento è infatti pensato come occasione per fare educazione alimentare e fare comprendere l'importanza della qualità dei cibi nel nel mantenere la propria persona in buona salute. La giornata conclusiva domenica 21 giugno è dedicata all'Oriente con l'Oriental Day. Informazioni sul sito www.vivoevegetofestival.wordpress.com. Quindi ripetiamo, a Lusi, in provincia di Rovigo, dal 12 al 21 giugno, Vivo e Vegeto Festival. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare, se volete, sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.